You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 che attraverso i piatti, la cucina, gli odori, le spezie ci porta in diversi paesi e ci porta anche a conoscere meglio l'Italia, che cambia anche grazie alla presenza di stranieri sul nostro territorio o di persone che hanno radici altrove ma sono italiane. In questo caso oggi parliamo di un paese dell'Africa, del Burkina Faso. Abbiamo il piacere di avere come ospiti delle signore Fanta Tiemtore, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera. Sara Ouedraogo. Buonasera. Allora, noi parliamo con voi di un progetto che portate avanti. Con una mano sola non si può raccogliere la farina, cioè che significa che insieme si è più forti, che insieme si va più lontano, no? È questo il senso, no, Sara? Sì. L'associazione per cui lavoro da un po' di anni, faccio volontariato, si chiama Watinoma. Ed è un'associazione che si trova a Kubri, che è una località un po' fuori Ouagadougou. Ed è formata sia da artisti e volontari africani, burkinabè, che artisti e volontari italiani. È un'associazione che si occupa di agricoltura, di sostenibilità economica per le famiglie e di educazione e anche di festival culturali, quindi per far conoscere la cultura anche soprattutto ai visitatori di questo piccolo centro che si trova a Kubri. Fanta. Io sono presidente di Mirage Burkina, che è un'altra associazione di migranti, sia in Italia che in Burkina Faso. Quindi è più legata alla migrazione, all'aspetto, diciamo, dell'inserimento dei migranti burkinabè nelle nuove comunità in Italia. Sul territorio italiano, nella provincia di Lecco, in particolare, e in Lombardia in generale, perché lavoriamo come mediatori culturali in Italia da più di 10 anni. E poi in Burkina portiamo giù dei progetti, soprattutto di agricoltura anche noi, e poi di sostegno familiare in generale. Decide di mettere fine a ce giorno 15 ottobre al potere autocratico di Thomas Sankara, di arrêter il processo di restaurazione neocoloniale entre i paesi passe traite alla rivoluzione. La révolution est dissoute. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Le président du Faso. Voi avete però delle storie molto diverse una dall'altra. Sara, lei non è nata in Italia, però è italiana a tutti gli effetti. Ci racconta brevemente come, in che modo, insomma, è venuta a contatto con questo paese. Allora, sono stata adottata all'età di 5 mesi e quindi dai 5 mesi fino ai 27 anni io non ho mai visto l'Africa. E quindi sono cresciuta con l'idea dell'Africa attraverso i media, attraverso i libri e quello che mi raccontavano le persone intorno a me. Poi con l'arrivo dei primi immigrati in Italia, negli anni, fine anni 80, anni 90, ho cominciato ad avvicinarmi soprattutto a persone senegalesi che hanno cominciato a raccontarmi l'Africa e lì è nata la curiosità di ritornare nel mio paese d'origine. Sono andata quindi in Burkina, ho cominciato a conoscere la mia cultura, le tradizioni, la lingua, a vedere, a toccare con mano quello che comunque mi era stato detto, che c'era una grande diversità, però pian piano ho scoperto anche il lato misterioso, magico dell'Africa, ciò che affascina l'Africa e che dopo si dice che viene il mal d'Africa, quindi Anche lei è venuto, insomma. sì. Allora, dalla provincia di Monza e Brianza ha fatto questo viaggio verso le sue radici biologiche. So che ha incontrato anche la sua famiglia d'origine, no? È stato un incontro emozionante. Sì, l'ho incontrato nel 2007, ma neanche senza tante ricerche, per coincidenza. In Africa si crede molto al tantam, quello che dice a quell'altro, a quell'altro ancora, fino al punto che con il passaparola sono riuscita a ritrovare la mia famiglia. Io dopo ho fatto vari accertamenti, dei certificati di nascita, coincidevano tante altre cose, però. Senza passare attraverso tribunale o altre istituzioni pubbliche, sono riuscita a trovare la mia famiglia e lì ho dovuto inventarmi una relazione con loro, perché comunque in realtà sono degli estranei per me. Pian piano sì, è nato l'affetto, è nata la relazione, però devo inventare un rapporto di parentela che fino a quell'ora non c'era. Invece è molto diversa la storia di Fan. È cresciuta in Burkina Faso. Suo nonno addirittura era re. Sì, è vero, io sono una principessa del Burkina Faso. Sono nata e cresciuta in Burkina fino ai miei 22 anni, mi sono sposata a 20 e poi mi sono trasferita in Italia perché mio marito viveva già in Italia. Piombata in un altro mondo dove mi sono messa di nuovo, cioè a ricominciare tutto da capo. E Una questo comunque principessa mi ha che fatto adesso vive crescere. e lavora in un centro per anziani, giusto? In Esatto, provincia di Lecco. proprio così. Io mi sono un po' reinventata la vita in Italia perché la vita giù per una ragazza come me che ha avuto comunque tante possibilità, che aveva anche tante opportunità, anche essendo in un paese povero come il Burkina, non era la stessa cosa in Italia. Arrivare qui, ritrovarmi comunque con dei diplomi che non erano validi. Una patente non valida, quindi vuol dire ricominciare da capo con la nostra cultura del Burkina, che è completamente diversa da quella italiana. Integrarsi non è stata In facile. cosa in particolare è diversa? Beh, nella condizione proprio di essere donna. La vita qui è molto individuale, molto personale, ti devi inventare tutto da sola. Non hai nessuno che ti prende per mano e ti accompagna. Viene più fatta in comunità la vita in Burkina Faso, La nella vita in famiglia Burkina invece, d'origine? ecco, la famiglia del marito che ti accompagna, che ti sostiene. E quindi nella società in generale la donna sposata ha uno status, un ruolo, non soltanto in famiglia, ma anche nella società in particolare. Diventare mamma, il sostegno che c'è, non è la stessa cosa che c'è in Italia. Quindi ce n'è Quindi meno in ci Italia sono. di sostegno quando si diventa mamme. Esatto, tante volte ci si ritrova un po' da soli. C'è questo comunque rituale che si usa da me, che quando la donna partorisce i primi 40 giorni è molto accudita, viene fatto tutto, questa donna è coccolata in Italia, dopo i 3 giorni dell'ospedale te ne torni a casa con un neonato, anche se sei al primo bambino ti devi arrangiare. Di solito noi quando invitiamo un ospite che ha appunto come sempre radici in qualche altro posto del pianeta, chiediamo di portarci un piatto. Sara, quale piatto ci ha portato questa sera a cena? Il tò è una polenta bianca fatta con la farina di miglio o la farina di mais bianca con verdure. Quindi insomma una semplice polenta che si può accompagnare con diverse salse, che il Burkina Faso ha una vera e propria passione per le salse, le persone le sperimentano, no? Sì, sì, soprattutto usano il fumbalà, che è un dado vegetale e proviene un po' dal seme dell'albero del mere. Conoscono tanta gente, anche italiana, che dice tante volte che quando c'è il fumbalà in giro non si può respirare, però il sugo senza il fumbalà non si può neanche mangiare. Perché è forte, ecco. Quindi, non si può respirare perché è forte. Forte. Esatto. Io porto il riso con i fagioli, che in Burkina si chiama benga, e questo fagiolo piccolino con l'occhiello bianco e nero che noi usiamo molto spesso a sostituire anche la carne. Essendo un paese povero non è che si ha l'abitudine proprio di mangiare la carne tutti i giorni, quindi i fagioli vengono anche un po' usati tante volte come proteine. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Sara, quando lei va in Burkina, quali sono le cose che la colpiscono di più e che cosa è riuscita a fare con l'associazione della quale fa parte? Allora, quello che mi colpisce di più è l'odore, il caldo, l'odore, i colori e il fatto che dicono ma gli africani sono lenti, invece sono sempre di fretta, si alza la mattina presto e non si fermano fino a quando non cala il sole. Quindi questo è quello che mi ha colpito i primi tempi che sono arrivata in Africa. Quindi è un luogo comune da sfatare, insomma. Sì. Dopo vabbè, c'è il periodo, l'ora del pisolino, chiamavano così, però appena sorge il sole fino a quando cala c'è sempre movimento, c'è sempre gente alla ricerca di un'opportunità lavorativa o altro. Adesso sta anche cambiando molto il paese, no? Abbiamo citato le dimissioni del presidente contestatissimo Compaoré alla fine dell'anno scorso e c'è un movimento molto vivace, insomma, per reinventare questo paese. Lei ne ha avuto qualche sentore nei suoi rapporti anche per l'associazione? Sì, io conosco la comunità di Burkinabè qua a Bergamo. E ci sono dei ragazzi che sono un distaccamento di un movimento politico che ha sempre appoggiato Sankara e quindi già in Italia fanno già delle riunioni o delle piccole manifestazioni per appoggiare poi i vari amici che sono rimasti in Burkina. Quelli che sono rimasti in Burkina hanno detto che finalmente c'è la possibilità di parlare ad alta voce della politica. Invece prima si doveva parlare a bassa voce o soltanto con persone fidate. Sperano che qualcosa cambi, visto che comunque sono morte delle persone e hanno visto una grande partecipazione, soprattutto del popolo. Ed era da anni che il popolo non si muoveva per far muovere un presidente così forte. Era un presidente che si appoggiava a Gheddafi, si appoggiava a grandi dittatori che ormai sono morti e quindi prima o poi doveva cadere anche noi. Il faut qu'il parte e il partirà. Ce président là, comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte e il partirà. Comment? Bien, ce président. Per chi non conoscesse la storia del Burkina Faso, dalla sua indipendenza nel 1960 ha conosciuto solo nei primi 6 anni di vita un governo civile, poi insomma ci sono state una serie di governi militari, e c'è stato questo assassino di questo presidente molto amato Sankara, e poi una lunghissima presidenza di Compaoré, questo presidente contestato, durato 27 anni, il 31 ottobre scorso ha dato le dimissioni, è iniziata una nuova stagione, anche a seguito di molte proteste. Fanta, lei ne ha avuta eco, immagino. Esatto, cioè noi abbiamo vissuto giorni di passione. A distanza, lei sentiva i suoi familiari, i suoi amici in Burkina Faso? Sì. Noi eravamo qua tutti e tre, quindi di mio padre e di mia mamma eravamo qua in Italia e noi seguivamo praticamente tutto quello che stava succedendo a casa nostra da fuori, ed è stato veramente un momento molto molto difficoltoso, cioè dover sentire tutti quanti dalla mattina alla sera sapere quello che succede. Un momento di gran fermento, no? Di rivoluzione proprio. Sì, tutto il casino è successo soprattutto nella capitale. Nella capitale, allora, dove sono nati questi movimenti di piazza, dove anche molti musicisti, li stiamo ascoltando, ne abbiamo sentiti alcuni brani durante la trasmissione, hanno dato vita a questo movimento, quello delle scope cittadine, no? Un invito a tutti, diciamo, i cittadini a prendere la scopa e ripulire con integrità il proprio paese. Il Ballet Citoyen, sì, è un movimento che è nato non più di 2 anni fa, che ha iniziato comunque un po' a stimolare la gioventù del Burkina Faso a riprendere un po' il loro futuro in mano, perché comunque il momento era arrivato di far capire che loro sapevano troppe cose e non potevano sorpassare su queste cose. E penso che comunque ognuno deve anche a un certo punto essere protagonista del suo futuro. Quindi è quello che è successo in Burkina. Lei ha speranza per la rinascita di questo paese? Pensa che ci tornerà, ad esempio? Ma certo, assolutamente sì. A vivere? Anche a vivere, non adesso, ma sì, perché comunque si lavora, si continua a lavorare su progetti e formazioni vari, perché comunque anche adesso, ora noi stiamo facendo questo lavoro con la CESPI, Fondazione For Africa per il Burkina Faso, loro sono in presenza in Burkina da tantissimi anni e stiamo tornando anche a casa con questi progetti, stiamo tornando a casa proprio per la nostra gente, per la nostra terra, perché non possiamo pensare di vivere all'estero per tutta la vita. I nostri figli, le nostre radici, cioè, sono cose che per noi burkinabè non devono disperdersi così nella natura. Anche se è molto bello vivere in Italia, l'Italia per noi è la seconda casa. Quali sono, Fanta, le difficoltà per una persona, lei che lavora appunto per l'inserimento dei migranti burkinabè in Italia, quali sono le difficoltà più grandi? Lei le ha mai sentite sulla sua pelle queste difficoltà? E come? Oggi io non parlerei di razzismo, perché io vivo ormai in Italia da tantissimi anni. So riconoscere una situazione di razzismo e so riconoscere anche una situazione di paura, di ignoranza e del fatto soltanto di non conoscere la diversità. Ma all'inizio io l'ho vissuto proprio sulla mia pelle. Da me in Burkina è segno di rispetto lasciare il posto a una persona anziana, Io nel pullman un giorno mi sono alzata per dare il posto a una signora anziana che mi ha rifiutato completamente di sedersi dove mi ero seduta io. Al lavoro, i primi giorni ci sono state delle signore che non volevano farsi lavare da me, perché pensavano di essere sporcate da me piuttosto. Quindi queste, cioè, oggi quando io le racconto sono situazioni che mi fanno ridere, ma all'epoca, quel giorno, quando succedeva questa cosa, io scoppiavo a piangere, perché quando poi vivevo questa cosa era molto molto difficile da sopportare. Situazione anche vissuta dai miei figli, sul pullman, andando all'asilo soltanto tra bambini, dei bambini che insultano altri bambini, se uno sporco negro. Quindi penso che sono tutte cose che il fatto di non conoscere porta anche a queste cose. Sara, lei ha un background molto diverso, no? Però chiaramente il suo aspetto un po' esotico l'avrà messa in queste situazioni qualche volta, o no? Comunque non vado in giro con la scritta sulla fronte, sono stata adottata, sono italiana. Quindi viene scambiata a volte magari per una migrante. Sì, come una straniera, come una immigrata, come una prostituta e tante altre cose. Perché io comunque ho fatto la scelta di vivere da sola, quindi di mantenermi da sola, di lavorare tutto, e quindi vedendo una ragazza di origine africana che vive da sola, la macchina si veste come ogni ragazzo occidentale, non viene ben vista ancora, purtroppo, perché io non abito a Milano, nella grande metropoli, ma abito a Bergamo, e io sono rimasta, sono tra due mondi, perché in Italia mi vedono come la straniera, oppure quella comunque da tenere un po' lontano, e invece in Africa come la tubab nera, diciamo così. Significa tubab? La tubab di solito è il bianco che è il gran bianco turista che va in Africa. Mm-hmm. E quindi la tubab nera che ha soldi, e quindi spesso mi è capitato che mi chiedessero soldi. Ma tu vieni dall'Italia, tu hai la famiglia italiana, tu hai soldi. Sia la mia famiglia d'origine mi chiedeva i soldi, sia comunque conoscenti africani del Burkina. E questo mi ha fatto soffrire molto, perché ho visto che era molto difficile avere o costruire un'amicizia sincera, perché comunque loro ricercavano in qualche modo un mio aiuto economico. La caratteristica più gustosa della cucina del Burkina Faso è rappresentata dalle innumerevoli salse con le quali si accompagnano tutti i piatti, sia quelli di derivazione francese che quelli tipici del luogo. Il to è il piatto nazionale. Si tratta di una polenta di mais bianco, in sapore, che viene accompagnata con delle salse. Per il resto, la maggior parte dell'alimentazione consiste in riso o couscous, con salse di verdure, carne o pesce. Purtroppo, la cucina locale è abbastanza avara di dolci, fatta eccezione per le frittelle di farina di miglio che si vendono per le strade. In Burkina Faso si trova anche dello yogurt abbastanza denso, tipo quello greco. Ma per finire, la cosa migliore è la frutta: fragole, papaya, manghi e banane. Da non dimenticare la limonata allo zenzero, squisita e soprattutto dissetante, e la birra di miglio o d'olo. Io ringrazio Sara di averci raccontato un pezzo della sua storia, del suo impegno per le sue origini in Burkina Faso. Grazie, buona serata. Grazie, Sara. Grazie anche a voi. Grazie. E grazie a Fanta per averci anche lei raccontato le sue radici e il suo legame ancora con questo paese. Tra l'altro non avevamo mai avuto una principessa come ospite e ne sono molto grazie, orgogliosa. Grazie, grazie a voi, Fanta. Grazie a voi. And the pandos, cia, cia. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo. Da Valentina Furlanetto è tutto. Buona serata. You've got to give a little. That's the glory of love.